Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 passate da pochissimi secondi, siamo puntualissimi. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore che anche questo giovedì riparte con il suo live, il suo concerto dal vivo, dei vari artisti che si susseguono ogni giovedì nel suo programma dalle 21 alle 22.30. Assieme a me ovviamente c'è il mio fedele compagno, Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao, benvenuto anche a te, questa sera è una serata importantissima, c'è una grandissima artista, ne parliamo tra qualche istante. Chiara, vi pazienza, stai lì, di muovere. Allora, questa, dicevo, è la vostra emittente preferita in questo preciso istante, Blu Radio Veneto. Trasmettiamo nelle nostre frequenze, cioè 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza. Per chi ci volesse seguire anche in streaming, basta andare semplicemente nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. In alto sulla sinistra, più o meno quasi alla fine della pagina, sulla home page come si suol dire, sulla sinistra, dicevo, c'è scritto ascolta la radio, basta cliccare lì, c'è il simbolo della cuffia, cliccando lì c'è la radio in diretta 24 ore su 24. Poi abbiamo i nostri pagine, diciamo, le nostre pagine di Facebook, sono due, una è semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, e lì è gestita totalmente da Alberto Prisco. Lo cito anche per ringraziarlo, perché se Chiara tu sei qui è merito di Alberto Prisco, il nostro direttore, ci ha voluto questo, fortemente questo live, e io mi sono associato subito immediatamente, ovviamente non potevo fare diversamente, e quindi ti ha invitato. Allora, a questo punto carta e penna per i numeri, per se volete fare qualche domanda, intervenire, mandare qualche messaggio a questa grande artista, e vi ricordo, allora, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms è il 346 20 033. E a questo punto è doveroso dare il benvenuto a una grande artista, come dicevo prima, Chiara Canziano. Ciao Chiara. Ciao, eccoci qui, grazie. Ciao Chiara. Benvenuta a Blu Radio Veneto. Grazie. E grazie per aver accettato l'invito. È un piacere. Anche per noi è un piacerissimo averti qui, insomma. Fatto buon viaggio? C'era traffico? Un po' di traffico uscendo da Milano, ma per il resto è andata liscia. Senti, io ti faccio subito una domanda che la faccio a tutti, ovviamente, insomma, di presentazione dell'artista. Non puoi esimerti, insomma, da rispondere, ovviamente. Chi è Chiara Canziano? Mamma mia, è la domanda più difficile. Ogni volta non so mai cosa dire. Nulla, dunque sono una cantautrice da 8 anni, sono una cantautrice. Diciamo che da sempre ho avuto questa passione molto forte per il canto, per la musica in generale. Cantavo prima di parlare, in quanto mi raccontano che a un anno mi cantavo l'inno Nanna da sola, in quanto i miei dopo un po' si arrendevano. E poi, diciamo, c'è stato uno sviluppo ovviamente di questa passione fino ai 14 anni, quando ho appunto scoperto Jeff Buckley, e quindi questo modo nuovo di intendere la musica, arrivando ad ascolti molto più pop invece, e ho deciso che volevo fare la cantautrice, quindi non solo cantare o interpretare, ma proprio scrivere le canzoni da cantare in qualche modo. Quindi diciamo che lì c'è stata la svolta vera, e Chiara Canziano appunto ha iniziato il percorso musicale in maniera più seria. Quindi è stato Buckley che ti ha dato l'ispirazione per, sì, partire praticamente, per fare la cantautrice vera e propria, scrivere, esatto, e cantare. Esattamente, i tuoi pezzi. Sì, sì, sì. Lui è stato tutta colpa sua. Tutta colpa sua, beh, è una bella colpa secondo me, non è una brutta colpa. Poi lo sai che Maurizio poi tra l'altro è un grande amante di Jeff Buckley. Avremo tempo poi di parlarne, perché un mito si deve parlare, dei miti bisogna sempre parlare, che i miti, esatto, sono importanti per la costruzione anche degli artisti, secondo me, danno degli insegnamenti nonostante che ormai se n'è andato un po' di tempo. Infatti io nel mio piccolo, visto che purtroppo al grande pubblico comunque non è molto conosciuto, lo conosce più chi è dentro la musica in, sì, qualche modo, questo è, no, vero. Quindi io nel mio piccolo, nei miei live, porto sempre un paio di brani suoi come praticamente uniche cover, certo, durante il repertorio, per trasmettere la sua musica, che infatti ne vale la pena, sì, no? È proprio meritevole. Delle sensazioni notevoli, proprio dal feeling, c'è, cioè, il pathos, sì, eccetera. Sì. C'è qualche canzone di Jeff che ti piace particolarmente, o è tutta la discografia in sé che ami, insomma? Ma in realtà tutta la discografia, ci sono alcune canzoni del secondo disco uscito postumo che magari non amo moltissimo, ma probabilmente non l'avrebbe magari neanche messa nel disco, no? Potendo scegliere, hanno fatto tutta una selezione molto ampia di provini, no? Quelle che amo di più sono quelle che faccio poi live, quindi Mojo Pin, Lover, You Should Come Over. In realtà tutto il disco Grace mi piace moltissimo proprio. Proprio ti piace proprio tanto? Sì, sì. Ti sei ispirata totalmente, insomma. Per quanto ho potuto, sì. Allora, Chiara Canzian qui per presentarci il suo secondo lavoro, dopo. Un lavoro completamente diverso rispetto al primo, si chiama Il Mio Sangue. Mm-hmm. Come mai questa diversità, questa voglia di cambiare totalmente? Io leggo delle tue parole che ho trovato in una intervista che tu hai fatto. Dice: mi sento veramente fortunata perché sono riuscita a fare un disco che mi rappresenta in tutto e per tutto, senza cedere a troppi compromessi e con il coraggio di fare ciò che davvero sento, senza il problema di dover pensare a cosa il commercio vuole. E a 21 anni questa libertà vale più di un primo posto in classifica. Meravigliosi. Hai risposto praticamente. No, guarda, c'è stato questo cambiamento forte perché il primo disco l'ho fatto, pensa, l'ho registrato mentre stavo facendo la maturità a scuola, quindi non ho avuto un gran tempo per seguirlo come invece magari avrei desiderato, no? Io ho scritto le musiche, i testi non ero ancora particolarmente pronta, matura, quindi sono stati fatti da altri, anche grandi parolieri, certo. Gino Pacifico, Nicola Agliardi, Michi Porro. E è stato arrangiato, diciamo che ci sono state molte mani, ecco, all'interno di quel disco lì, no? Ed è uscito un ottimo prodotto pop, Poi ovviamente quando è uscito erano già passati 2 anni da quando avevo scritto i brani, quindi c'era già stato un cambiamento dentro di me, e dopo è continuato questo cambiamento, dopo Sanremo c'è stata proprio la rottura. Nel senso che ho sentito proprio il bisogno di fare qualcosa che mi rappresentasse in tutto e per tutto, anche magari sì, rischiando un po', no? Senza l'aiuto di professionisti, certo, sì. Insomma, ho fatto tutto io, ho scritto le musiche, ho scritto i testi, con la mia band abbiamo suonato, arrangiato tutto quanto e basta. Non... E poi una cosa che giustamente hai detto, li hai provati dal vivo questi pezzi, cioè li hai proprio cementati dal vivo per vedere come venivano fuori. Esatto, prima di registrarli nel disco, come sto facendo tra l'altro adesso con i brani che magari andranno nel terzo, li suonavo live per vedere anche la reazione del pubblico e anche un po' in questo modo li ho selezionati. Certo, è un sistema che spesso e volentieri le band americane fanno. Citiamo i Pearl Jam per esempio, che spesso e volentieri presentano i pezzi che poi verranno incisi dal disco. Esatto, cioè, sì. è una bella cosa secondo me, provare i pezzi nuovi con il pubblico. Il pubblico è il giusto metro di paragone secondo me. Ma assolutamente, poi io diciamo che mi ritrovo molto bene nella dimensione live, ho sempre molta ansia, molta angoscia prima di salire sul palco, però dopo con calma mi rilasso e creo un rapporto molto familiare con le persone che ho davanti, cioè spesso mi capita di magari fare un inedito e alla fine chiedere vi è piaciuto, cosa ne pensate. Bello. Sì, proprio in tranquillità, no? Certo. Perché... ma così deve essere secondo il mio punto di vista, cioè poi... E poi dialogare così apertamente con il pubblico e con gli spettatori che sono davanti a te, penso sia la cosa più bella, anche perché così fai più partecipi. Ma infatti sì, loro vedo sempre che sono contenti comunque di essere... In gran parte ti conosceranno, importanti. Ovviamente. Beh, insomma, come canzoni oddio. Parlo io, come canzoni. No. No, non particolarmente, però sicuramente ci sono delle persone che mi seguono fisse e delle altre che magari si trovano lì per caso e si appassionano, è bello anche quello. Gli apprezzamenti che ti hanno dato su questo disco, il discorso musicale del pubblico, ti è servito poi a calibrare i pezzi, a costruirli in una certa maniera oppure no? Ma diciamo che il riscontro del pubblico mi è servito a sceglierli più che altro, ecco, no? A sceglierli. Nel momento in cui li proponevo live avevano già abbastanza la forma, che una poi struttura quasi completa, so. Sì, che poi hanno avuto nel disco. C'è stata solo l'aggiunta del quartetto d'archi e basta, quindi sì, non li ho cambiati poi musicalmente, li ho semplicemente selezionati. Perfetto. Adesso la vogliamo sentire però. Indubbiamente. Cosa preferisci, disco o live? Lascio a te, visto che ti piace il live. Iniziamo col disco, dai. Cosa abbiamo scelto, Chiara? Il Mio Sangue. Ok, allora dal disco Il Mio Sangue, la title track, la canzone che apre anche l'intero lavoro, per voi a Blu Radio Veneto c'è Chiara Canzian. vita per un solo tuo pensiero. I miei occhi e la mia voce per vedere un tuo sorriso. E tutta me per appartenerti sempre. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:16 con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con Chiara Canzian. Vi ricordo sempre comunque i nostri numeri telefonici. Allora, il numero qui in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri SMS, se volete mandargli fare qualche domanda, Chiara, sei disponibile a rispondere se qualcuno del pubblico ti chiede qualcosa? Certo, chiaramente. Allora, il numero di telefono dei vostri SMS è il 346 23 20 033. E, che dire, ti porto già i saluti di un ascoltatore che ti sta ascoltando, si chiama Orio, Onorio, insomma lo chiamiamo Orio, ti fa i complimenti e ti saluta caramente. Grazie mille, un saluto. Pezzo, il mio sangue è un pezzo, è un blues sofferto, c'è poco da fare. E ha le caratteristiche del blues ed è sofferto. Sì. Sì, infatti quando l'ho scritto il provino si chiamava Blues, ecco, perché il testo è venuto molto dopo. È un brano che è nato, diciamo, non da una mia idea, nel senso che ovviamente poi l'ho scritto io, certo. Quindi il flusso armonico poi è venuto parte da me. Te. Sì. Però diciamo che è nato da una persona che poi ha un po' ispirato tutti i testi del disco, che appunto mi ha detto che secondo lui avrei dovuto fare un blues. Sì, non ha mica sbagliato secondo me. Infatti, vedi pure. E quindi a un certo punto io ho detto vabbè dai proviamo e ho fatto questo blues. Però la musica è nata in un momento e il testo è nato invece dopo, sì, dopo un po' di mesi addirittura. D'estate ero in Puglia con mia mamma, dove andiamo sempre, e in vacanza, e lì è nato il testo di questa canzone. Mi ricordo che gliela feci sentire a lei e a mia zia, che era con noi, e piansero entrambe, perché appunto sapevano in che situazione ero, da che momento arrivavo, e quindi... Era uno specchio, sì, praticamente. Era proprio specchio. Uno specchio. Infatti quando parlo del disco, dei brani del disco, dico che comunque il mio sangue, non solo musicalmente come arrangiamento, rispecchia gli ultimi due anni della mia crescita musicale, ma anche come testo, certo. Perché comunque è stata una sofferenza che si è poi prolungata per tempo. E poi una cosa molto positiva che a me è piaciuta molto è stata questa viola iniziale che dà un certo punto di vista, una forza al pezzo sicuramente. Sì, sì, sì, è un po' azzardato iniziare con un solo di viola. Sì, può darsi che sia azzardato, ma un azzardato che poi ha pagato sicuramente. Sì, sì, assolutamente. Io volevo Nicola Manzana. E volevo dei violini o delle viole sue, insomma, quindi l'ho chiamato e ho detto fai quello che vuoi. E lui ha fatto l'intro del mio sangue e poi con la viola, certo, con la viola. E poi invece col violino ha doppiato, mi pare, delle chitarre su Parla con me, sì. Che è un brano che mi ha donato per Luigi, esatto. Ferrantini dei Velvet, che sì. Ha scritto con i suoi collaboratori e siamo molto amici, quindi me l'ha fatto sentire, a me è piaciuto molto e l'ho cantato. Benissimo, beh, chiaramente ritornando al pezzo iniziale, cioè che abbiamo sentito adesso, è un pezzo molto interessante che ha questa caratteristica, il blues è forte, sì. Anche se nell'album il blues non è proprio nascosto, però qui no. Non è nascosto, è alla portata di si sente. Sì, qui ha i tipici accordi del blues. Sì. Però comunque l'abbiamo suonato in linea con il resto del disco, sì, certo. In maniera scarna, batteria, sì. Non black, ma più tendente al rock, comunque come suono quantomeno. E... Sì, sei entrata a grandi falcate nell'universo del rock, c'è poco da fare con questo disco, secondo me. Ti ringrazio. Chiara, io se mi permetti, visto che hai parlato della mamma, la volevo salutare perché è una carissima persona, una cara amica. Delia, ti mando un bacione grande grande da parte mia, da parte di tutta Blu Radio Veneto, e spero di veramente di vederti presto, perché lei mi invita sempre a vedere i concerti suoi, io non ci vado sì. Mai. Tanto ci sta ascoltando. Sì, quindi. Lo so, me l'ha scritto oggi su Facebook. Quindi ciao Delia e un bacione grande grande ancora. Insomma. Ecco, un allora. Bacione mamma, ci sentiamo dopo. Tra l'altro Delia, anche te, visto che siamo in tema, è una carissima, oltre che carissima amica, dicevo, è anche una bravissima cantante. La sua canzone Occhi poi resta indimenticabile. Sì. Vabbè, questi sono gli anni passati. Allora, Chiara, cosa ci fai adesso? Qualcosa da sì, vivo? Sì, potrei fare Senza Sé, che è tanto per cambiare una canzone d'amore. Si basa tutto su questa ipotesi, no? Su questo sé. Il testo appunto gira attorno a questa cosa, dice ma perché se alla fine vuoi stare con me non ti dai senza sé, senza sempre i soliti dubbi, no? Che vengono. Ok. Se queste parole diventassero sole per scaldare te sempre, per dar vita a te sempre, e se questa mia voce diventasse poi luce per illuminar sempre, per accendere te. E se questa mia pelle diventasse di quelle per accogliere in sé ogni parte di te, e se il mio pensiero diventasse leggero per comprendere poi tutto il bello che sei, e se ancora ti vedo e nei giorni ti seguo, dimmi allora perché tu non dici mai se, se mi prendi e mi cancelli come io fossi aria, e se mi tieni e mi consumi senza mai un pensiero, oh, oh, oh. E se questi miei occhi diventassero specchi per avere per sempre il riflesso di te, e se queste mie labbra diventassero acqua per travolgere te e portarti da me, se ma grintosa nello stesso tempo, giusto? Dolcissimo, sì, esattamente. L'hai quasi trasformato dal vivo questo pezzo, hai dato una grinta notevolissima, vocalmente parlando. Hai un ritornello molto accattivante, però qua l'hai proprio allargato, secondo me, lo spettro. Sì, forse nel disco è un po' più pop. È un po' più pop, esatto. Qui hai dato proprio il tono della voce molto forte, l'hai proprio, non dico trasformato, ma hai dato una colorazione diversa. mi sembra giusto, il live deve essere sì, così. Quando canto dal vivo è un brano potenza, che sento forte. Sempre molto, quindi sì, esce un po'. Esce bene, assolutamente. Bene. Questo è un disco praticamente che è semplice, tra virgolette, c'è poca musica ma c'è molta voce. Sì, diciamo che è stato un disco suonato in funzione della voce e della canzone. Sempre un po' in contrasto col precedente, no? Perché nel precedente c'era un miliardo di cose in una canzone, no? E il cembalino, e lo strumento di qua, e lo strumento di là, e quello in fondo a destra che te ne accorgi solo se lo senti. Quindi io volevo proprio svuotarmi da tutte queste cose qui, da tutti questi fronzoli, e tornare alla musica, alla sostanza, no? Quindi avevo proprio bisogno che un pezzo reggesse anche con quattro cose, ecco. E così ho fatto, ho proprio chiesto ai miei musicisti di... la frase è stata questa: suonate questo disco col vostro strumento come se lo stesse cantando. Quindi la chitarra in qualche modo suonava in funzione di me, la batteria e il basso anche. E quindi non sono mai invadenti, no? Lasciano sempre lo spazio alla voce ed è fondamentale, insomma, tanto più... Quindi la voce al centro di tutto praticamente delle cose. Ma sì, la canzone al la centro canzone, di tutto. La canzone, non suonare uno strumento per se stessi, ma in funzione del brano, no? Chiaramente. Sono le 21.28, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente, come piace dire a me, preferita in questo preciso istante, con Chiara Canzian e il mio sangue, disco uscito ad aprile, se non sbaglio, vero? Sì, ad aprile, il 5 mi pare. Hai lanciato due singoli. No, dunque, abbiamo fatto questa cosa, abbiamo dato un CD con tre brani alle radio e la possibilità di sceglierlo. E mi sa che il primo, ecco esattamente... Il primo è stato E ti sento. Sì. E poi, ecco, poi in seconda mandata abbiamo fatto questa cosa con i tre brani ed erano Il mio sangue, Tra la gente e Senza sé, probabilmente non me lo sto ricordando, e poi appunto Scelsero il mio sangue, poi Scrivi d'oro. Sì, Scrivi d'oro, cioè Scrivi d'oro, poi Tra la gente. Sì, sì. Tra l'altro hai fatto un video bellissimo con Scrivi d'oro, mi piace moltissimo. Grazie, io l'ho fatto spesso. Io. Perché dopo E ti sento, che invece andammo a New York. A proposito, andare a New York, com'è stato il discorso, Chiara? È stato nulla, praticamente il disco è stato masterizzato lì. E poi per una serie di questioni col regista di quel disco, di quel video che voleva andare lì, c'erano una serie di coincidenze che funzionavano e siamo andati a girare il video lì. Poi ho fatto anche dei concerti a New York. Insomma, un po' di cose positive in quella città. Poi però dopo quel video diciamo che non potevo più spendere tutti quei soldi per fare un video, cioè non è concepibile, perché è difficilmente la mia musica viene passata su MTV o comunque su le TV musicali italiane, no? Quindi ho detto faccio io, va bene, tanto devo metterlo su YouTube e farlo girare il più possibile, certo. Ecco. La soluzione era quella. Esatto, dopo. Quindi ho preso un paio di amici con la macchina buona da ripresa e gli dicevo dove mettersi, così quando girare, quando smettere di girare. Ho fatto il montaggio di notte, la color correction, tutto io. Però ti dirò che sono anche abbastanza soddisfatta, insomma, minima spesa, massima resa. Ecco, diciamo. Quello è quello l'importante, poi al di là di tutto. Esattamente. Buonissimo, facciamo ascoltare sì, ancora. Sì, facciamo un altro pezzo. Che cosa abbiamo scelto? Vai, vuoi fare un pezzo live o dalla scaletta, Chiara? Ma no, facciamo pure scaletta. Dalla facciamo scaletta. Viene va, no? Ok, viene va. Da disco allora? Sì, sì. Sì. Ok. Scenderà sui corpi assetati, il tempo come ascolterà i battiti stanchi, e quando la terra tremerà tra alberi e case, il tempo come si aggrapperà ai sogni già stati. Mi dirà che è tempo di andare, almeno il mio amore resterà, così si conviene, viene, viene. Va, va, viene, viene, va. lasciate. Ancora da sola scoprirò i nuovi tracciati. E quando il mio petto mi dirà che devo scappare, di nuovo il mio amore sempre sta, così si conviene. Viene, viene, va. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo sentito questo pezzo, allora Chiara, questo arpeggio che scandiva i tempi, molto bello, che tu hai fatto chiaramente la chitarra acustica. È un certo senso, l'arpeggio della chitarra acustica dà sempre una colorazione, un fascino, c'è poco da fare, secondo me. Sì, sì, poi diciamo che anche il 6 ottavi aiuta molto a dare questa sensazione di rotolamento. È di rotolamento, no? Esattamente. Sì, diciamo che uno dei tempi che preferisco è proprio il 6 ottavi, tant'è che i miei musicisti ormai quando arrivo in sala dicono: ok, come sono i nuovi pezzi, 6 ottavi, la minore, mi minore, ok. Ho già capito tutto. Le cose che mi caratterizzano proprio, quel passaggio d'accordi e il tempo in 6 ottavi. Quindi non ci sono state difficoltà, cioè avevi già già predisposta, avevi già l'idea, i musicisti hanno solo allargato lo spettro. Sì, sì, assolutamente. Ognuno di loro ha messo il proprio sentire riguardo al suo strumento, ovviamente, certo, no? Che assieme ha creato questo suono che comunque è molto vero, molto, molto diretto, secondo me. Guarda, per quanto mi riguarda è un disco che arriva, secondo me. Forse più del primo, nel senso che non ci si perde a sentire cose che magari non sono importanti, no? C'è solo l'essenziale, quindi ti concentri necessariamente su quello. Sì, ma un essenziale che ti ha costato 2 anni di lavoro continuo. È molto facile mettere, è molto difficile levare. È chiaro. Quindi è quello il punto, no? Lo studio che è stato fatto. Quanti, poi, quanti pezzi avevi a disposizione? Già pronti, che parecchi. Hai deciso, parecchi, che hai fatto una selezione. Certo, ne avevo una trentina, tipo... Per un doppio album una volta si chiamava così, esatto. un doppio CD. Però alcuni brani non erano magari all'altezza, altri non... Erano abbozzati forse. Sì, altri non avevo fatto il testo, insomma diciamo che comunque questi spiccavano tra gli altri. Quindi la scelta è stata anche abbastanza facile, tutto sommato. L'arrangiamento, fatto l'arrangiamento, sei stata soddisfatta subito dell'arrangiamento, dato l'ok immediato? C'è stato un grande lavoro anche lì, la prima parte, la preproduzione, la prima bozza di arrangiamento l'abbiamo fatta tutti assieme. Poi ha preso in mano la cosa quello che era il mio chitarrista, che è Valerio De Paola, che ha dato una chiave di volta al tutto, che li ha messi in bella copia, certo. Ha scritto gli archi, i pianoforti, lui è molto bravo, molto talentuoso, quindi ha fatto delle cose bellissime. È chiaro che ci siamo un po' messi d'accordo, no? Magari lui mi mandava una prova di un arrangiamento con gli archi, io gli dicevo no, li vorrei più strani o più particolari, certo. Allora ricambiava così, e fin quando siamo arrivati a questa cosa ed eravamo molto soddisfatti entrambi. Quindi quando siete entrati in studio era tutto predisposto? Sì, sì, assolutamente tutto. Io mi devo scusare con gli ascoltatori perché c'erano problemi di connessione, ma grazie a Dio abbiamo risolto e adesso ti sentono anche in streaming. Prima c'era infatti, mi dicevano che non erano riusciti. Infatti anche a me, però qui dava che era a posto, poi sono andato a verificare, in effetti c'era problema di connessione, quindi adesso ci siamo. Siete collegati con Blu Radio Veneto, con Chiara Canzian, con Agostino Spalori che in questo momento vi sta parlando, e con Maurizio Calzavara. Vi ricordo i nostri numeri telefonici se volete chiamare, se volete mandare un SMS, allora è il 346 23 20 033 per i vostri SMS, mentre se ci volete chiamare in studio è lo 049 875 6423. Bene, adesso un altro pezzo da disco, cosa dici? Facciamo sentire un pezzo da disco? Da disco o dal vivo? Beh, dal vivo, dai, meglio dal vivo. Come volete, eh? Facciamo dal vivo. Scegli dai. Tu, scegli tu. Cosa vuoi fare? Facciamo Tra la gente. Tra la gente, bene. E lo fai dal vivo. Live, assolutamente live. Perfetto. Lo faccio live. Faccio la sigla. E andare poi per mano, per non sentirti via da me. E andare poi lontano, per fingere di essere qualcuno tra la gente, che guarda e vede niente. E ancora le tue mani, scavalcando tutte le persone. Respiri strappandoti la pelle, che porti e non ti appartiene. E giuri che un altro giorno ancora non assaggerai mai più. Ma non è così, tu tremi ed io credo in te. E per te brucerò la follia, io saprò scegliere, io saprò stringere le tue mani su di me. La tua mente fragile, nei miei istinti tu sarai, e nei fianchi morirai. Osservi per non sentirti solo, ma trovi solo ipocrisia. E mi cerchi con le ultime tue forze, e poi svieni addosso a me. Ma non puoi così, risorgo in te e per te. Ogni gesto avrò, nei tuoi passi cadrò, nei respiri saprò annullare i dubbi tuoi, incontrarti dentro i miei. Non c'è niente senza dolcissima, sempre, lo dirò, sempre dolcissima. Grazie. Tu hai scritto anche, hai detto giustamente che anche forse uno dei pezzi più pop dell'album, questo qua, assolutamente, l'hai detto in un'intervista. Questo? Io sì, ho detto che è uno dei brani più pop, sì. Lo escludo sinceramente, perché di solito dico che è uno dei brani più complicati, nel senso... sai, secondo me in realtà sono tutti pop, scrivendoli mi sembrano sempre orecchiabili a me, no? Però è un contesto molto struggente, questo sì, possiamo dire. Sì, sì, in questo brano parlo della depressione, ma dal punto di vista della persona che sta accanto a quella depressa, no? Che è un punto di vista che viene spesso sottovalutato, comunque non raccontato, no? E invece è una situazione altrettanto critica, in quanto ti trovi a vivere la tua vita e a vivere anche quella dell'altra persona in qualche modo, per non farla poi sprofondare. Certo, e certo. Quindi racconto questa cosa, è un argomento abbastanza complesso e per questo l'arrangiamento segue l'intensità, no? Quindi tipo ci sono alla fine degli archi che fanno le quintine su un quattro quarti, è abbastanza, come dire, un po' uno scoglio, no? Per l'ascoltatore. Quindi così anche la struttura è un po' diversa da come è di solito in un brano. Quindi il pop è solamente nell'ambito, insomma, sì, diciamo. Possiamo che così... nei miei brani c'è sempre l'inciso, ecco, no? Esattamente, riconosci sempre l'inciso, però sì, non si può dire che sia particolarmente commerciale questo. No, assolutamente no, non parlavo di commerciale, non sì, intendevo sì, di punto di vista commerciale. Pop vuol dire popolare, in ogni caso popolare. Certo, quindi, sì, sì. Quindi assolutamente fuori... No, non parliamo di commerciale, decisamente lontano da questa idea. Come nascono le tue canzoni, Chiara? Sono tutte esperienze tue di vita o prendi spunto da qualcos'altro, insomma? Cioè, leggi un libro, per esempio, ti viene in mente una canzone? No. Guarda, sinceramente no, sono ancora un po', diciamo, limitata da questo punto di vista, nel senso che... riesco a scrivere solo di cose che mi hanno riguardato in prima persona o magari hanno riguardato persone molto vicine a me, no? E che quindi le ho vissute un po' di riflesso. E quindi sì, parlo sempre di cose che ho vissuto, che ho sfiorato. Magari mi piacerebbe un giorno poter parlare di cose che comunque non ho sentito mie. Sarebbe un passo in avanti, però credo magari che verrà negli anni. Però credo che se sono cose che sono successe a te, sono cose che ti fanno ancora più piacere raccontare. No, questo. Assolutamente, però sai, dico, che so, parlare della società o... molti parlano anche di politica o di eventi che sono successi nel mondo, insomma, che so, il primo passo sulla Luna, no? Adesso mi viene in mente. Io non riuscirei a raccontare una storia di questo tipo, forse cioè, perché la mia scrittura comunque è molto a immagine, meno a storia. Quindi sì, ci sto lavorando, comunque sto lavorando sui testi e mi auguro che in un futuro potrò fare anche delle cose volta, del genere, insomma. Sì, un po' alla volta. Ma sei molto prolifica in fatto di scrittura oppure... Diciamo che non avviene che io mi metta lì e dica, boh, adesso questo faccio scrivo. Dei... E l'ispirazione dai. Fai? Sì. Di notte scommetto? Eh? Di notte magari? Spesso, ma non solo, non necessariamente. Ho capito. Di solito abbiamo chiesto ad altri musicisti, sono detto qua, loro catturano l'ispirazione o con un telefonino o con un block notes, tu come la catturi l'ispirazione? Anch'io il mio telefono, se lo perdo è una tragedia, perché registro tutto lì inizialmente, poi sul computer. Certo, insomma, certo, adesso con le nuove tecniche è possibile fare tutto. Però i testi non li scrivo mai al computer prima. Ho un quadernetto. Un quadernetto. Sì, mi piace di più perché puoi cancellare più velocemente, scrivere sopra, scrivere sotto. Quindi quello, diciamo, mantengo un po' la, come dire, nostalgicamente la carta e penna, almeno per il testo. Benissimo. Un caro saluto da Roberto, che ti fa i complimenti, dice decisamente bella voce. Grazie. E poi ancora un saluto da un collega che ti ha già intervistato a Macerata, da Radio Nova, si chiama Alberto. Grazie, ha già intervistato, però è ancora in ascolto e ti porge i suoi più cordiali saluti, insomma dice che sei bravissima, insomma, ovviamente. Bene, mi fa piacere. Allora, adesso a questo punto cosa facciamo, Maurizio? Sentiamo un pezzo dal disco adesso, sì. Le facciamo riposare un pochino? Sì, facciamo riposare un pochino. Ma io la farei suonare un'altra canzone, poi la facciamo riposare. Sei stanca? Come volete voi, dai, io facci qualcosa dal vivo, dai, che ti vogliamo sentire dal vivo. Ok. Mm-hmm. Allora facciamo, cosa facciamo? Inverno e primavera o scrivi d'oro? Scegli tu. Scrivi d'oro, va bene? Scrivi d'oro? Sì, esattamente. Va bene. Luce riflessa addosso a me, che sono fatta di polvere da quando vesto parole che mi chiudono dentro un'immagine che non basta più, non voglio più parlare, non mi basta più. Tu scrivi d'oro, frasi d'amore tutte addosso a me, fai del mio corpo la carta dei tuoi perché. Troverai in me favole inaspettate e sarà forse una nuova estate. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pensieri stretti addosso a me, che voglio solo evadere da questa strana mia realtà sospesa ed immobile, sempre a metà. E poi vieni tu, stupendo e silenzioso, e mi salvi tu, che scrivi d'oro, frasi d'amore tutte addosso a me, fai del mio corpo la carta dei tuoi perché. Troverai in me favole inaspettate e sarà forse una nuova estate. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Questa è una delle canzoni che amo di più dal disco, è il secondo singolo questo, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, è sì, quello sì, che esatto. Hai fatto passare come nelle radio come secondo singolo, insomma. E sì, che ti sì. Ha portato molta fortuna perché sta avendo successo un po' ovunque, se non sbaglio. Ma è andato apprezzato, bene su YouTube, apprezzato... l'hanno visto bene anche il video. No, è un brano che amo molto, dicevo, la musica è nata tanti anni fa. E il testo invece è poco prima che uscisse il disco, quindi a distanza veramente di 4 anni, perché l'avevo scritta ancora per il primo disco questa. Poi non era stata presa perché ce n'erano altre così, però ci tenevo molto a questo brano, mi è sempre piaciuto tanto e ho voluto metterlo. Si sente che lo canti con la voglia proprio di cantare qualcosa di bello, insomma. Sì, quando non salta la voce. È un brano molto delicato, delicatissimo, possiamo dire, con un arpeggio proprio di chitarra che dà proprio, cioè, proprio l'immagine del pezzo stesso. Poi è semplicissimo, sì. Perché alla fine nella strofa l'accordo è lo stesso, cambia solo una corda, no? Capito. Cioè è un giochino proprio minimo, però efficace. Crea, sì, efficace. benissimo. Crea proprio l'atmosfera, come si dice. Certo. 21.52, Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con Chiara Canzian. Vi ricordo per l'ennesima volta, se volete mandare sms, il numero è il 346 23 20 033, mentre per quanto riguarda il numero telefonico in studio è lo 049 875 6423. Vi ricordo ancora le frequenze, 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. E mi scuso ancora per i problemi di connessione di poco fa, spero che insomma abbiate perso la prima parte, i primi 20 minuti circa di trasmissione, ma comunque poi la potete riascoltare in podcast che noi metteremo appunto tra qualche giorno, insomma. Quindi avete la possibilità di risentire Chiara, almeno quelli che volevano ascoltare con lo streaming. Invece per quanto riguarda le frequenze lì non c'era nessun problema, perché insomma si sentiva benissimo, almeno dai commenti, e ti fanno i complimenti ancora, insomma. E te li fa, aspetta che ho perso la pagina, te li fa Stefania e Alessandro. Stefania e basta, si firma così? No, c'è anche il cognome, io se vuoi te lo dico, si chiama Rinaldi. Sì, infatti sospettavo fosse lei, perché di Stefania fan ce n'è una. E anche Alessandro, insomma. grazie a tutti. Sono loro che mi hanno avvisato che c'erano questi problemi di... E infatti, guarda, stavo per dirlo prima in diretta, poi non mi sembrava il caso. Però ero sicura che se non fosse andata, poi appunto questa Stefania, che è molto presente anche su Facebook, mi avrebbe fatto il mazzo in qualche modo, no? Perché lei vuole seguire ogni cosa e quando non funziona dice: ah, ma non funzionava. Lei di dov'è? Di Milano? Milano, sì, sì. Per forza non sentiva. Però è una matta, perché mi segue ovunque. Se vado a suonare a Salerno, viene. Ah, vabbè. Sì, prende l'aereo e viene, torna la notte per andare a lavoro il giorno dopo. Quindi sarà a Verona la settimana prossima, giusto? Assolutamente. Mi collego subito a questo discorso. Quali sono i prossimi tuoi appuntamenti? Allora, c'è appunto Verona, come dicevi, il 21 gennaio, e sarò al club Il Giardino. In realtà non è proprio Verona, è lì vicino, Lugagnano. Bravissimo, Lugagnano. E poi il 1 febbraio sarò a Firenze al Volume. Poi c'è già una data d'aprile a Treviso, all'OM, il 27 aprile. Però insomma credo che nel frattempo ne verranno fuori delle altre. Per essere sempre aggiornati si può seguire il mio sito, che è chiaracanzian.com, oppure Facebook, la pagina ufficiale, che è facebook.com/chiaracanzianmusic. C'hai anche su MySpace? Sì, ma non lo aggiorno da 200.000 anni, quindi non consiglio non ti piace di andare. Più, neanche no, invece da poco c'è Twitter. Sì. Ecco, quindi anche lì bisognerà seguirmi e vedere tutti gli aggiornamenti. Mentre i dischi si trovano ovunque, iTunes, in tutte le altre piattaforme digitali. Ho il sospetto che si trovino più lì che in forma fisica, perché comunque erano state stampate poche copie. Ed è difficile, no? Quindi averlo in tutta Italia. Certo. Però basta richiederlo e lo spediscono, ecco, eventualmente. Non c'è problema. Senti, tu sei stata anche, ho visto un video con, perché io non ho visto tantissimo quella trasmissione, perché non è che diventi proprio matto, ma ho visto che hai fatto una partecipazione a X Factor con Noemi. Sì, anni fa, nel 2009 sempre, mi pare, dopo Sanremo. Tutti i giovani di quell'anno di Sanremo andavano a X Factor a duettare con un ragazzo. Una ragazza di lì, e io ho fatto appunto con Noemi. Tra l'altro è una storia carina, perché da quel momento siamo poi diventate amiche, ci sentiamo tuttora, e di recente l'ho vista al premio Lunezia, che eravamo lì la stessa sera, e appunto non lo so, non dico nulla, però magari mi ha chiesto di sentire dei miei brani, quindi chissà che nel prossimo disco di Noemi non ci sia una mia canzone, ecco. Eh beh, speriamo bene. È una gran bella cosa questa qua, Sì, sì, infatti sono molto contenta, perché mi sto affermando come cantautrice, come autrice, no? Ed è una cosa che mi dà gioia, insomma, che piaccia anche ad altri colleghi il mio modo di scrivere. Bene, bene, sono contento. No, ma io volevo chiederti cosa ne pensi della trasmissione in sé, a parte la partecipazione che tu hai fatto, insomma. Cioè, questa competizione, diciamo, tra emergenti. Beh, vabbè, la competizione, insomma, c'è e non c'è, nel senso che è un po' come Sanremo, cioè non è che vai lì con l'idea di competere, vai lì per farti vedere fondamentalmente. Io tendenzialmente non amo particolarmente i talent, nel senso che ho sempre pensato che fossero delle macchine per l'infelicità, no? Nel senso che è molto difficile che tu esca da lì e abbia un successo che rimane negli anni. Ci sono veramente pochi esempi, tra cui Noemi, le auguro di continuare così, che sono riusciti a mantenere, no? E fatalità sono poi le persone che avevano fatto tantissima gavetta prima, comunque. Quindi per i ragazzi e per le ragazze che vanno lì dal nulla dicendo ci provo, eccetera, poi magari ne escono sconfitti o con un successo che dura 6 mesi, cioè crea dei traumi incredibili, delle carenze psicologiche pazzesche, no? Certo. E uno si ritrova a 20 anni frustrato. Se mi permetti, un po' quello che ti è successo a te a Sanremo, quasi. Sì, io a Sanremo sono arrivata un po' confusa, piccola, con al primo disco, no? E quindi chiaramente i primi dischi sono sempre un po' confusi o comunque non con la linea che poi, si prende, no? Certo. Nella vita, magari nel resto della carriera, ecco. Io dopo Sanremo ho avuto proprio la rottura con tutto ciò che poteva essere commercialità, visibilità, TV, radio, tutto, via. Mi sono proprio staccata da questa cosa, e, perché capivo che se fossi andata avanti così sarei arrivata appunto a 22 anni frustrata, con delle musiche che magari non mi facevano impazzire, e certo, la gente se ne accorge di questo, non puoi fingere. Allora mi sono fermato, ho fatto la ricerca che poi mi ha portato a fare questo secondo disco. Forse è stato anche lo stimolo, la carica giusta. Assolutamente lo stimolo, sì, assolutamente. Per fare qualcosa di tuo. Adesso dici, questo è un disco mio, invece prima non era mio. Esatto, Sanremo è stata una grande esperienza di crescita, proprio. Mi ha fatto capire i miei limiti, le mie capacità in determinate situazioni, e mi ha aiutato un sacco poi a maturare, ecco, anche le cose negative che magari potevano esserci state. E adesso per esempio per il terzo disco non sono più così integralista come ero per il secondo, no? Sto cercando una produzione artistica esterna in modo che possa avere un parere anche esterno, sto scrivendo cose più leggere, più anche più accessibili se vogliamo, pur mantenendo quella che è la mia caratteristica comunque di cantautrice, senza mai snaturarmi ovviamente. Però ecco, c'è una maturazione, c'è una presa di consapevolezza ulteriore, secondo me. Quindi, senza volerlo, ci hai già annunciato che sta per arrivare un terzo disco? Sì, ma stiamo parlando dell'anno prossimo. Vabbè, almeno. Ma intanto, insomma, c'è già qualcosa. Penso entrerò in studio fine estate, spero. Adesso sto lavorando, sto scrivendo, a breve andrò in studio per fare alcuni provini sperimentali. Sì. Vediamo. E se ti strappassi una promessa, mi dici di sì? Sentiamola prima. Vieni a presentarcelo anche qui? Certo, volentieri, senz'altro. Allora però, ti aspettiamo con il terzo disco, insomma. Tanto Alberto è in contatto con il tuo manager, quindi insomma. Perfetto. Possiamo contattarti subito. A parte che adesso siamo in contatto anche con anche noi, Facebook. Sì, certo. Terzo disco, dicono appunto che sia il disco della maturità, e tu l'hai intravisto, hai detto qualcosa, probabilmente così praticamente. Sì, io dico sempre che il primo disco è stato la tesi, questo è l'antitesi, e probabilmente il terzo sarà la sintesi. È la sintesi di tutto praticamente. Esatto. La svolta è che sì, con il terzo disco sarà una svolta radicale. Eh sì, perché per il secondo hai bisogno di rivendicare tutto quello che è il coraggio tuo modo, di avere cambiato esatto. tutto praticamente. Esatto, poi per il terzo disco l'hai già fatto quello, quindi puoi rasserenarti un attimo e vedere di fare ciò che ti diverte, ecco. È arrivato l'SMS per te. Bravissima Chiara Canzian, una grande artista, mi piaci tanto. Firmato Marzia. Grazie mille. E poi Stefania si è fatta risentire e dice ci mancherebbe. La parte importante, quella in cui ha parlato di me, l'ho sentita. Adesso può staccare. Insomma, io ne approfitto anche per risalutare la Delia, insomma, perché se magari non ci ha sentito prima. Ciao Delia, un bacione. Ecco. Allora, cosa ci fai ascoltare adesso? Dal disco adesso, dal direi disco. Un po', no? Facciamo riposare un secondo. Facciamo Che colpa avevo io. Ok. Ok. Corpi, le ferite ancora sanguinanti e le mani sempre più distanti. E tu dimmi che colpa avevo io di quel fango sotto i nostri piedi, la fatica a trascinare. guardarci avanti e la voglia di tornare indietro. E tu dimmi che colpa avevo io, se c'è tutto da rifare, se i miei occhi non vedono più niente, se ti ho perso, se ti ho perso. I tuoi pensieri e la vita fuori da me. E tu dimmi che colpa avevo io, se c'è voglia di cambiare, se i miei occhi non sanno più vedere, non ti sento, non ti sento. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora circa 30 minuti in compagnia di questa splendida artista che ci sta deliziando con la sua musica, insomma, e poi sto scoprendo una persona, ve lo posso garantire, che sono al di qua del vetro. Dolcissima, semplicissima, una bellissima persona. Grazie. Davvero, Chiara. E abbiamo parlato con, mentre il pezzo andava, abbiamo parlato con la Chiara, che è stato fatto anche il vinile di questo CD, che è una cosa meravigliosa, secondo me. Sì, bellissima. Sì. No, infatti, diciamo che tutta la parte estetica del disco volevo che fosse molto curata, no? Allora, la cosa di fare una tiratura limitatissima, perché 300 copie di vinile era una cosa in più ancora, no? Che mi piaceva proprio. E quindi abbiamo fatto questa mini tiratura di vinili, che sono, cioè, uno spettacolo, è una soddisfazione incredibile per me. E quindi sì, c'è anche il vinile. Ecco, è importante. Per chi volesse. Sì, sì, beh, tra l'altro, un grande ritorno. Non costa poi così tanto, perché comunque live, quando lo porto, è quasi mai, quindi vi conviene ordinarlo diversamente. Comunque live costerebbe 20 euro, mentre diversamente 25. Uh-huh. E se pensi, è praticamente come un disco di quelli che escono da Amici, quindi tutto, cioè, sommato magari conviene comprare un vinile. Ecco, esatto. Che sono i suoni migliori comunque rispetto al CD. No, guarda, è uno spettacolo. Lo so. Quando me l'hanno portato, il primo, ancora senza etichettina CI, che dovevano ancora mettere tutto, proprio il primissimo, sono andata in un negozio pazzesco a Milano di proprio stereo audio, no? Mi sono chiusa nella stanza con queste casse giganti e il giradischi e me lo sono ascoltato tutto. Ma che spettacolo! Una volta si chiamavano le lacche, quelle cose. Le lacche. Le famose lacche. Sì. Meravigliose, le lacche famose. Che bello. Sta ritornando una specie di collezionismo, ma è un collezionismo di un certo livello. Sì, sì, infatti. Spero di averne venduto qualcuno, non mi sono informata a riguardo, però io a casa ne ho un po' e li conservo gelosamente. I vinili? Eh sì. Immagino sì. Di cosa siano, Jeff Buckley, no? Sai che non ce l'ho il vinile di Jeff Buckley? Oh sì. Di Grace non ce l'hai. No, ma esiste? Sì, non lo sapevo esiste. Neanche, sì, sì, vedi? Esiste. Dovrò chiedere a un mio nuovo amico che è collezionista di vinili di farmelo dare. L'hanno stampato anche i vinili, sì. Poi hanno stampato anche quello dal vivo in vinile. Ah, quello, fantastico. Quello che è un mini, un cosiddetto bravi. Mini dischi. Segna adesso così. Segnati queste robe che sono molto importanti. Beh, visto che parliamo di altri artisti, Chiara, quali sono i tuoi gusti musicali a parte Jeff Buckley, ovviamente? Cosa ascolti? Cioè, noi facciamo sempre un'ipotetica domanda, no? Diciamo, se tu vai in un'isola deserta, cosa ti porti per ascoltare? Jeff Buckley. Cioè, a parte lui. A parte lui, oddio, quante robe posso portare? Tre. Tre, dai. Troppo poche. Sì. Guarda, io amo moltissimo la scena cantautorale americana, quindi mi piace Tori Amos, mi piace Joni Mitchell, Carole King è stata un po' la prima donna ad aprire il discorso del cantautorato femminile, sì, con Tapestry ha praticamente aperto le porte al cantautorato femminile. Guarda, mi piace un sacco poi quel disco, lo so tutto a memoria. E appunto lei, quella Carole King, la passione per Carole King me l'ha passata mia mamma. Poi da lì Joni Mitchell, Tori Amos, eccetera, Jeff Buckley, Tom Waits, non lo so. Amo moltissimo quella scena lì. Poi in Italia, per esempio, non sono poi molti gli artisti che seguo, però mi piacciono tanto i Negramaro, mi piace... Nicolò Fabi, sì. Hai citato un brano di Nicolò Fabi che tu ami particolarmente in un'intervista. E, penso sia Costruire, vero? Ho detto quello, sì. Infatti mi piace da matti. Carmen Consoli, quindi anche qui il cantautorato in qualche modo. Di un certo livello, però scegli sempre di un certo livello, sì. Perché per esempio Nicolò Fabi ha un certo modo di arrangiare i pezzi, di cantare i pezzi. Ah, dobbiamo sottolineare che lui aveva una famiglia di un certo tipo, visto che era un arrangiatore, grandissimo arrangiatore. Sì. E poi ovviamente per le cose invece magari più moderne, anche straniere, c'è tutta una fascia di cose nuove che ascolto, da Regina Spektor a Faced a Anna Calvi. Anna Calvi, sì, bravissima, infatti. Bravissima, ha fatto delle cose meravigliose recentemente. Sì, infatti pensa, io l'ho scoperta da poco e ha fatto questo disco Anna Calvi e ho detto vabbè, insomma sarà appena uscita, no? Qui, pensavo di sì. Sarà appena uscita, vediamo un po' chi l'ha prodotto il disco, così magari lo chiamo, non sarà uno, insomma non mi costerà un occhio della testa, no? Magari vediamo, ci parlo un attimo. Giro, Brianino, detto, ok, ti va costerà bene. Sicuramente un occhio della testa. No. È un po' più, d'altronde sai, Brianino. Lui tra l'altro è, c'è un mio amico che ha anche provato a contattarlo, è totalmente irraggiungibile perché, capirai, c'ha gli U2, c'ha i Coldplay, che non gli interessa niente, a meno che magari non ci sia questo genio come Anna Calvi che è super personale, che lo colpisce. Oh, magari lo chiamo, ci provo. Ecco, si prova. Non ci sono mai. Pronto, Brianino? Sì, ciao. Senti, mi produci? Ascolta, devi ripetere un po' il discorso del disco, dove si trova, perché qui c'è una persona che ha scritto Mamma mia, che meravigliosa canzone, il disco dove si compra? Dunque, nel mio sito, cioè appena apri la pagina chiaracanzian.com, prima di entrare nel sito c'è una ulteriore pagina che ti dice dove si trova il disco, dove trovarlo, e c'è tutta la lista dei negozi per regione, per città, quindi lì può vedere. Se invece vai nel negozio vicino casa perché ti è più comodo e non c'è, digli, devi assolutamente procurarmi il disco di Chiara Canzian, certo. Anzi, perché minimo. Non ce l'hai? Cioè, non è possibile, capito? Certo. Quindi che faccia un discorso del genere, vedrai, certo. che glielo spediscono, purché abbia un tono autoritario, ecco. Dunque, per quello che ho sentito, le performance live di Tra la gente e Scrivi d'oro hanno riagganciato in gran parte, se non completamente, lo stato di forma impressionante del concerto alla Salumeria della Musica. Comunque sono uno dei pochi ad essere poco interessato ai vinili. Ecco, dici. Male. Però, dice, finché compri il disco e mi segui live va bene uguale. Ho un po' mescolato comunque. Dicevo, della salumeria della musica dello scorso ottobre, davvero brillante, dice. Grazie. E poi il luogo privilegiato per trovare Jeff Buckley in vinile è Amazon. Qui facciamo un po' di pubblicità, si trova tutto e anche da rimeditori terzi e affidabili. Fantastico. Io comunque sono uno dei pochi, appunto, diceva, ad essere poco interessato ai vinili. E fai male, Alessandro, perché i vinili c'hanno un suono deciso. Alessandro, dice il cognome anche qua? Sì, se vuoi te lo dico, Bernie. Infatti, li conosco tutti, però che carini che mi seguono, grazie. Beh, insomma, ci mancherebbe. Dicevo, fai male ad essere poco interessato, perché i vinili hanno un suono decisamente migliore, molto più caldo rispetto ai CD, sì, che sono freddi. No, adesso te, scusami, ero sovrappensiero, pensavo saranno contenti per la loro privacy, che io sto distruggendo, no, completamente. Vabbè, è scritto qui, cioè, okay, su Facebook, insomma. Okay, okay. Io sto leggendo solo Facebook. Ah, ok, va bene. Dalla mamma, poi, tra l'altro, anche. Va bene, ascoltiamo qualcosa dal disco adesso, o vuoi fare qualcosa dal vivo? Abbiamo ancora una quindicina di minuti, Chiara. Ditemi voi, se volete io vi faccio la chicca che avevamo ricordato prima. Sì, ce la fai? No, più tardi la facciamo per ultima. Facciamo per ultima. Così stanno lì ad aspettare la chicca. Esattamente. Facciamo dal disco qualcos'altro. Io non avevo selezionato altre canzoni. Possiamo farle. Sì, avevamo detto Inverno e Primavera, sì, non l'abbiamo ancora sentita. Okay. Ascoltiamo Inverno e Primavera? Sì. Okay. Sì, sì. Chiara Canzian a Blu Radio Veneto da Il Mio Sangue. Yeah. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Vedo che sei sorridente, Maurizio. Stavate... Sì, perché stavamo parlando con la Chiara dei suoi progetti futuri e sono molto interessanti. Io non so se li posso svelare, però no, non diciamo niente. Non diciamo niente. Sono cose molto interessanti. Tra qualche mese, molto interessante. Sì, sì. È tutto in fase di lavorazione, quindi magari poi esce il disco e non riconosci nulla di quello che ti ho detto. No? Vediamo, sto sperimentando, ecco. Bene, bene. Allora, 22:18 ci facciamo ancora una canzone dal vivo, mm-hmm. e poi torniamo in studio per salutarci, Chiara, per dirci le ultime cosine e poi fai la chicca. Cosa ci fai ascoltare adesso da lì? Dopo faccio la chicca. La chicca la fai per ultima. Oh, signor, così non so più così cosa rendi... allora. Fai un'altra chicca, fanne due di chicche. Necessariamente di questo disco o posso no, fare quello che vuoi, puoi fare anche, a tuo piacimento. Puoi fare anche qualcosa dal prossimo dal prossimo disco. C'è qualcosa di nuovo? Sì, ho degli inediti che già, come vi dicevo, testo live. Vuoi regalarci questa chicca? Quindi ne fai due. Se mi ricordo gli accordi. Allora, dovete dirmi se preferite un brano bello, cantautorale, ma un po' più easy, o uno invece sempre bello, molto intenso, ma depresso proprio. Preferiamo che sei tu a scegliere. No, dai, io non posso scegliere. Come scegli fra i tuoi figli, cosa scegli? Non puoi, no? Giusto, è vero. E allora cosa scegliamo? Faccio quello easy. Facciamo quello easy. Vai pure. Tu che ti gratti il piede con l'altro piede. Tu che ti accartocci prima di dormire. E torni un po' bambino nel ventre della madre. E nel ventre dell'amante, uomo ad ansimare. Ma cos'è che ti stimola a continuare? Ma cos'è che ti stimola a ricercare? Ma perché ogni terra vuoi conquistare? Già hai casa e non hai imparato ad abitare. Siamo piccole parti di un più grande insieme. Gocce di pioggia nell'oceano indiano. Possiamo ideare e anche procreare. E rimanere sempre unici. Ma cos'è che ti stimola a ricercare? Ma cos'è che ti stimola a continuare? Ma perché ogni terra vuoi conquistare? Senza pace e alla vista scompare l'essenziale. Puoi trovare solidi appigli per le strade, strade di una vita stanca, dura in salita. Saluta chi ti spinge a cedere a compromessi. Poi senza fermarti, la felicità. Ora, ora, la felicità. Ora, ora. dolce, easy come dicevi tu. Sì, sì, più leggere, no? Ricalchi un po' comunque il disco Il mio sangue su questo nuovo disco, ricalcherai? O ma sì, sicuramente diciamo che quella è la strada. La strada ormai è segnata, no? Quindi può solo essere uno sviluppo, una maturazione. Sai però... che è molto difficile questo però, sai, seguire secondo me, perché... Di solito, senza offesa ovviamente, ma le ragazze della tua età seguono sempre un filone, diciamo, pop, no? Mm-hmm. Non molto impegnato. Tu invece cerchi proprio la voce, cerchi i testi. Sì, come ti dicevo prima, scrivendo per necessità e non per successo o per fare i dischi, certo. Obbligatoriamente devo fare qualcosa che sento molto, no? Quindi musicalmente... diciamo che mi muovo un po' sempre lì, certo. Quelli che sono gli accordi che conosco, perché poi sono autodidatta, quindi non è che cioè, ho studiato un po' all'inizio, ma basta. E poi appunto a livello di testo per esprimere quello che sento in quel preciso momento. Se acquistate il disco, alla fine trovate queste parole. Leggiamo, Chiara, me le posso dire? Prego, prego. Sono bellissime. Sono parole di Chiara Canzian. Questo disco è per me svolta e rinascita, conquista e cambiamento, gioia e fatica, calore e bellezza, sacrificio e sangue. In questo disco si può trovare un pezzo di me, la parte di me che in pochissimi conoscono, quella che non si arrende, che combatte, che si innamora e lotta per questo. La parte di me che ne esce sconfitta nonostante tutti i tentativi. Per questo disco ho fatto delle scelte importanti, non ho ceduto a compromessi, ho vissuto sulla mia pelle ogni parola ed ogni nota. L'ho condiviso con persone importanti della mia vita, nella musica e nella mia esistenza, e per questo è risultato un prodotto puro, vero, diretto. È scarno, è rarefatto nel suono e nella musica, ma allo stesso tempo è pieno e completo nelle parole e nella melodia. È un disco totale e totalmente parla di me. Bellissimo, veramente bellissime parole, insomma. Parte di me, scusa. Parte di me, parte sì, di me, sì, totalmente parte, parte di me. Me, sì. È il significato del disco praticamente. Sì, sì, ho cercato di racchiudere in quelle poche frasi un po'... Tutti i valori che si sono espressi nei 12 pezzi. Sì, anche un po' le sensazioni che avevo vissuto facendolo, no? Che sono molto contrastanti, perché è un disco del contrasto. Certo, questo, il disco comunque. Del contrasto. Luci ed ombre, ombre e luci, esatto. E alla batteria c'è Phil. Alla batteria c'è Phil, mio fratello, bravissimo batterista, solo numero visto. Uno. Sì, quindi ovviamente c'è lui, cioè ce l'ho in famiglia, che dovrei chiamare. Chiaro, ti ha anche prodotto, se non sbaglio, o no? Tutti assieme, tutti i musicisti assieme a me, abbiamo fatto i primi arrangiamenti e portanti, diciamo, ovviamente sotto la mia supervisione. E poi Valerio De Paola, il chitarrista, ha scritto, come ti dicevo, gli archi e i pianoforti. E qualcuno comunque se l'è accaparato nella tournée, Phil, vero? O che cosa? Qualcuno se l'è accaparato nella tournée come batterista, Phil, sì. Ma viene anche con me, Ciao Phil, se ci stai ascoltando. Allora, sono le 22:26, noi ci salutiamo, Chiara, finiamo qui la nostra intervista, lasciamo lo spazio ad Alberto Prisco, che è quello che ha organizzato, appunto, come dicevo all'inizio, questa tua partecipazione qui a Blu Radio Veneto. Ti rinnovo di nuovo, ti richiedo di nuovo la promessa, ti aspettiamo qui ancora con il prossimo disco, faremo felicissimi di averti qui. E senz'altro. Ti facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera musicale, insomma. Grazie. Che sia piena di tante soddisfazioni e anche un buon 2012, ovviamente. Maurizio, tu devi dire qualcosa? Sì, Chiara? Dico solo che adesso la Chiara finirà questo bellissimo concerto che ha fatto, questa un'ora e mezza di musica, col nostro nome tutelare, perché è un nostro nome tutelare. Si chiamava Jeff Buckley, ma anche non è si chiama ancora Jeff Buckley, perché è sempre presente, secondo me. Sì, guarda, io lo amo alla follia, quindi sempre nei miei live, come bis, chiudo con Mojo Pin, quando sono in duo, mentre con la band chiudo con Lover You Should Come Over. E in questo caso farò Mojo Pin. È la prima volta che la faccio con l'acustica, quindi... che tutti gli ascoltatori abbiano pietà. Speriamo, spero di contare anche sulla mia voce. Ti facciamo un ultimo regalo, Chiara, per la tua partecipazione. Questa intervista andrà in replica sabato prossimo alle ore 21, sempre qui a Blu Radio Veneto, sia in streaming. Stavolta speriamo non ci siano problemi di connessione, quindi se volete riascoltare anche la parte iniziale, a parte che poi ci sarà il podcast e quindi avete modo di ascoltarlo quando lo volete, però se qualcuno vuole risentire l'intera intervista sabato prossimo, cioè il 14 di gennaio alle ore 21 qui su Radio Veneto. Benissimo. Chiara, grazie, un bacione grande grande. Grazie mille a voi. E alla prossima. Verrò sicuramente, promesso. Grazie, Chiara. Ciao, grazie, ciao ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Seven gold, pair of flesh. Drop down we to the seven, pray to love. Born again from the rhythm, screaming down forever. Ageless, I'm there in your arms. Don't wanna weep before you. Don't wanna know. I'm blind and tattered. The white horse is slow. A memory is fire. So Grazie. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Chissà se io so tutto di te. Chi c'è tra quei capelli e il caffè che fuma? C'è forse un lungo e tenero addio a chi vive insieme capita. Mi piacciono i tuoi dubbi nei miei, mi fai svegliare viva anche quando piove. C'è gente che ama solo l'amore quando è nuovo e l'onda è morbida. Parlare e toccare i fili delle storie degli altri è facile. Per la gente noi siamo gente, ma il mio presente assomiglia a te. Siamo noi quelli veri, telefonati nel futuro imprevedibile. Chissà se tu sai tutto di me, dal west in bianco e nero ai jukebox al mare. Facciamo anche lo stesso mestiere, non a tutti questo capita. Mi piacciono i tuoi mondi nei miei, mi piace l'autostrada nel primo sole. Che il tuo cuore, la tua targa e le tue lacrime. Fra un anno che cosa vedremo?